Caribo Jumbo Buona, Leo giù a Cale Sana. Caribo Buona, Leo giù a Cale Sana. A Santa Sana, Icio, a Santa Sana. Cascio a Pana, a Pana giù a Cale Sana. Olele, olele, maliba magazine. Olele, olele, maliba magazine. Prendi il volo sopra sto mondo desperato.